Capitolo novantesimo. I figli di Pasifae. Tra i figli che Pasifae ebbe da Minosse vi furono Acacallide, Arianna, Androgio, Catreo, Glauco e Fedra. Essa ebbe anche Cidone da Ermete e Ammone Libico da Zeus. Arianna, amata prima da Teseo e poi da Dioniso, ebbe molti figli famosi. Catreo, che succedette sul trono a Minosse, fu ucciso a Rodi dal proprio figlio. Fedra sposò Teseo ed ebbe triste fama dallo sventurato amore per Ippolito, suo figliastro. Acacallide fu il primo amore di Apollo. Quando il dio e sua sorella Artemide si recarono a Tarra per purificarsi, Apollo trovò Acacallide nella casa di Carmanore, un suo parente per parte di madre, e la sedusse. Minosse ne fu irritato ed esiliò Acacallide in Libia, dove, secondo taluni, essa divenne madre di Garamante, mentre secondo altri Garamante fu il primo uomo che venne al mondo. Glauco, ancora fanciullo, stava giocando con la palla nel palazzo di Cnosso, o era forse intento a cacciare un topolino, quando sparì improvvisamente. Minosse e Pasifae lo cercarono per ogni dove e, non riuscendo a trovarlo, ricorsero all'oracolo di Delfi. L'oracolo rispose che chiunque fosse riuscito a stabilire la migliore similitudine con una nascita portentosa avvenuta recentemente in Creta avrebbe trovato ciò che era stato perduto. Minosse fece delle indagini e venne a sapere che in una delle sue mandrie era nata una vitella la quale cambiava colore 3 volte al giorno, passando dal bianco al rosso e dal rosso al nero. Egli convocò allora i veggenti a palazzo, ma nessuno riuscì a trovare una buona similitudine finché Poliido l'Argivo, un discendente di Melampo, disse: «Questa vitella assomiglia assai a una mora di rovo o di gelso», e Minosse subito gli ordinò di andare in cerca di Glauco. Poliido vagò nel labirintico palazzo finché trovò una civetta appollaiata all'ingresso di una cantina, che mise in fuga uno sciame d'api e ne trasse subito un favorevole auspicio. Nella cantina infatti trovò Glauco affogato a testa in giù in una grande giara dove si conservava il miele. Minosse, quando ebbe notizia di tale ritrovamento, si consultò con i cureti e, seguendo il loro consiglio, disse a Poliido: «Ora che hai trovato il corpo di mio figlio, devi ridargli la vita». Poliido protestò dicendo che egli non era Asclepio e non poteva dunque risuscitare i morti. «Non è vero», replicò Minosse, «tu sarai rinchiuso in una tomba con il corpo di Glauco e una spada, e vi rimarrai finché i miei ordini non saranno stati eseguiti». Quando Poliido si fu avvezzato all'oscurità della tomba, vide un serpente avvicinarsi al cadavere del fanciullo e, afferrata la spada, lo uccise. Ma ecco un altro serpente avanzare strisciando. Visto il cadavere del compagno, si ritirò e tornò poco dopo con una magica erba in bocca che depose sul cadavere del serpente. Lentamente questo ritornò in vita. Poliido, stupefatto, ebbe la presenza di spirito di applicare la medesima erba sul corpo di Glauco con lo stesso risultato. Cominciò allora a invocare con Glauco aiuto, finché qualcuno che passava da quelle parti li udì e mandò a chiamare Minosse, che fu felice di aprire la tomba e di trovarvi il figlio vivo. Minosse colmò Poliido di doni, ma non volle permettergli di ritornare ad Argo se non avesse insegnato a Glauco l'arte divinatoria. Poliido obbedì controvoglia, ma quando fu sul punto di salpare disse a Glauco: «Fanciullo, sputa nella mia bocca aperta». Glauco obbedì e subito si scordò di quanto aveva imparato. In seguito Glauco guidò una spedizione diretta a Occidente e chiese un regno agli Italici, ma essi lo disprezzavano perché non era un grand'uomo come suo padre. Glauco tuttavia introdusse in Italia l'uso del cinturone e dello scudo cretese e si meritò il nome di Labico, che significa appunto munito di cinturone. Androgio si recò ad Atene e vinse tutte le gare dei giochi panatenaici. Ma re Egeo sapeva che egli era amico dei 50 figli ribelli di Pallade e, temendo che potesse indurre suo padre Minosse ad appoggiarli, cospirò coi megaresi per tendere un'imboscata ad Androgeo nei pressi di Enoe, sulla strada di Tebe, dove il giovane era diretto per partecipare a certi giochi funebri. Androgeo si difese valorosamente, ma fu ucciso nel corso di un'accanita battaglia. La notizia della morte di Androgeo giunse a Minosse, che stava sacrificando alle grazie nell'isola di Paro. Egli si liberò dalle ghirlande di fiori e ordinò ai suonatori di flauto di tacere. Tuttavia portò a termine la cerimonia. Ancora oggi i sacrifici alle grazie nell'isola di Paro si celebrano senza musica né fiori. Glauco, figlio di Minosse, è stato a volte confuso con Glauco Antedonio, figlio di Antedone o di Posidone, che un giorno notò la virtù curativa di una certa erba seminata da Crono nell'età dell'oro. Infatti un pesce morto, o secondo altri una lepre morta, posato su quell'erba, era ritornato in vita. Glauco assaggiò l'erba e, divenuto immortale, balzò in mare dove vive ora come divinità marina, famoso per le sue avventure amorose. La sua dimora subacquea giace al largo della costa di Delo e ogni anno egli visita tutti i porti delle isole di Grecia, pronunciando oracoli tenuti in gran conto dai marinai e dai pescatori. Apollo stesso è descritto come allievo di Glauco. A Pasifae come divinità lunare furono attribuiti parecchi figli: Cidone, l'eroe eponimo di Ciclone presso Tegea e della colonia Cidonia in Creta; Glauco, un eroe solare corinzio; Androgeo, in onore del quale si celebravano annualmente dei giochi al ceramico e che gli ateniesi onoravano come Eurigie, che gira in larghi cerchi per dimostrare che egli era lo spirito dell'anno solare; Ammone, l'eroe oracolare dell'oasi di Ammone, che più tardi fu identificato a Zeus; e Catreo, il cui nome pare sia una forma maschile di Catarroa, la luna propiziatrice di piogge. Le due figlie Arianna e Fedra sono doppioni di Pasifae stessa. Arianna, benché il suo nome si leggesse come Ariagne, la purissima, pare fosse nome sumerico Ar-ri-an-de, la fecondissima madre dell'orzo, mentre Fedra appare come Pdirri nelle iscrizioni della Palestina meridionale. Il mito di Acacallide, senza mura, si riferisce evidentemente alla conquista compiuta dagli Elleni di Egiale della città di Tarra, nella parte occidentale di Creta, che, come tutte le altre città cretesi, non era protetta da mura di cinta e alla fuga degli abitanti più illustri di Tarra in Libia, dove divennero i signori dei pacifici Garamanzi. Il bianco, il rosso e il nero, cioè i colori della vitella di Minosse, sono anche i colori di Io, la vacca lunare, dei sacri tori di Augia e, come appare da un vaso cretese, anche del toro Minosse che rapì Europa. Inoltre, i tripodi di argilla o di gesso, sacri alla dea cretese rinvenuti a Ninucane, e un tripode analogo trovato a Micene, erano dipinti in bianco, rosso e nero. E secondo le indiche di Ctesia, tali erano i colori del corno dell'unicorno. L'unicorno, infatti, come simbolo calendariale, rappresentava il dominio della dea Luna sulle cinque stagioni dell'anno di Osiride, ciascuna delle quali contribuiva a comporne la figura fornendo una parte di animale. La leggenda di Glauco che segue un topo può forse indicare un conflitto tra gli ateniesi fedeli di Atena, cui era sacra la civetta Glaux, e i fedeli di Apollo Sminteo, Apollo Topo. O forse la leggenda ebbe origine dal fatto che Minosse fece ingoiare a Glauco un topo rivestito di miele, l'estremo rimedio prescritto nel Mediterraneo orientale ai bambini malati. Il modo in cui morì Glauco si riferisce forse al fatto che il miele veniva usato per imbalsamare i cadaveri e la civetta era l'uccello della morte. La presenza delle api si può forse spiegare come un'errata interpretazione di certe gemme intagliate che mostravano Ermete nell'atto di richiamare i morti sepolti nelle giare, mentre le loro anime gli sciamavano attorno sotto forma di api. Poliido si identifica sia con Zagreo, esperto di metamorfosi, sia con il semidio Asclepio, la cui erba magica pare fosse il vischio o il suo equivalente nell'Europa orientale, il loranto. Nella leggenda babilonese di Gilgamesh si trova un parallelo della resurrezione del serpente. È un serpente, infatti, che ruba per Gilgamesh l'erba della vita eterna e poi ringiovanisce liberandosi della propria pelle. Ma Gilgamesh, non riuscendo più a trovare la magica erba, si rassegna a morire. Dalla descrizione questa erba risulta simile al prugnolino o spina magna, che i greci prendevano come purgante prima di celebrare i misteri. Poliido, sputando nella bocca di Glauco, ripete un gesto di Apollo che sputò nella bocca di Cassandra quando costei rifiutò di ricompensarlo per il dono della profezia. Cassandra tuttavia non perdette la memoria, ma fu condannata a non essere mai creduta. Le dee cui Minosse sacrificò senza l'abituale accompagnamento di flauti quando seppe che suo figlio era morto erano le parie, ossia le anziane, presumibilmente le tre moire eufemisticamente chiamate le grazie. Anche questo mito degenerò poi nell'aneddoto. La morte di Androgeo è un pretesto per giustificare l'inimicizia tra cretesi e ateniesi e poggia forse sul ricordo di un autentico ma poco importante omicidio compiuto a Enoe. Le straordinarie virtù divinatorie di Glauco Antedonio, il suo nome e le sue avventure amorose, tra l'altro anche con Scilla, ci fanno supporre che egli fosse la personificazione della potenza marinara cretese. Sia Minosse, che riceveva i suoi oracoli da Zeus, sia Posidone, patrono della confederazione cretese, avevano goduto di Scilla, e Antedone, che si rallegra nei fiori, era evidentemente l'appellativo dell'eroe cretese della primavera incarnantesi in ogni re del tardo periodo minoico. Pare che il re di Cnosso consolidasse i suoi rapporti con tutti gli stati della confederazione con delle nozze rituali, ed ecco perché Glauco ebbe fama di grande amante. È probabile che un rappresentante del governo di Cnosso visitasse ogni anno gli alleati cretesi d'oltremare, alla maniera di Talo, e promulgasse gli ultimi editti in forma di oracolo. Delo era un'isola di cultura cretese e forse un centro di distribuzione degli oracoli giunti dalla grotta di Ditte a Cnosso. Ma codesto Glauco rassomiglia a Proteo, il dio del mare di Faro cretese, e a Melicerte, il dio marino di Corinto, identificato con un altro Glauco. L'erba seminata da Crono nell'età dell'oro era forse la magica herb d'or dei druidi. Plinio e Nonno citano una versione del mito di Glauco data dallo storico Livio Xanto e ricordata in una serie di monete di Sardi. Quando l'eroe, Tilone o Tilo, Nodo o Fallo, fu fatalmente morso al tallone da un serpente velenoso, sua sorella Mera, Fato, si appellò al gigante Damasene, che soggioga, il quale lo vendicò. Un altro serpente allora colse il fiore di Zeus in un bosco e lo posò sulle labbra del suo morto compagno, che ritornò in vita. Mera seguì il suo esempio e resuscitò anche Tilo.